si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Uptown funk you up. Uptown funk you up. 'Cause uptown funk don't give it to you. 'Cause uptown funk don't give it to you. Don't believe me, just watch. Buongiorno cari ascoltatori, da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini, buona domenica a tutti. Eccoci qua, ben ritrovati cari ascoltatori. Da subito il numero verde 800 24 00 24, perché ogni sabato e domenica mattina vi vogliamo belli pimpanti per commentare tutte le notizie della settimana, le buone notizie. E per vedere se ci sono dei si può fare all'interno delle notizie di non si può fare, che di solito ci riempiono la settimana. Ci sovrastano scandali, inchieste, crisi da tutte le parti. È giusto che se ne parli, naturalmente, ma è giusto che il sabato e la domenica mattina arriviamo noi a portare l'unico, l'inimitabile del programma che cerca le buone pratiche, le buone notizie. Ora faremo un ripasso. Un mondo migliore, si può dire anche un mondo migliore, è esagerato. Da un paese migliore, il nostro sottotitolo. Esatto. Come no, come no. Milano Monterosa? Ormai è troppo presto, arrivo troppo presto per prepararmi per la trasmissione, arrivo intorno alle 6 e sembra sempre una giornata freddissima, però non è detto, potrebbe anche uscire il sole. C'è una notizia che era molto attesa e che è la notizia, e questo è il primo indizio, che riguarda il nostro personaggio della settimana. Ti guardavo con gli occhi sgranati perché ho detto: ma adesso è impazzito, sta già dicendo il personaggio della settimana? Pensavo stessi entrando a gamba tesa nella notizia, invece allora, no. Allora, anche oggi in palio due biglietti del catalogo della mostra da Raffaello Ascile a Palazzo Reale a Milano, una mostra che è iniziata a settembre. Finirà, credo, ve lo dico subito, il 7 febbraio del 2016, quindi c'è tempo per andarla a visitare. Sì, c'è tempo, ma si dice sempre così per le mostre. Ma tanto c'è tempo, avanti fino a febbraio. Poi di solito il 4 di febbraio uno dice: porca miseria, non ho visto la mostra, c'è ancora solo oggi. Esatto, e allora il primo indizio è che la notizia che riguarda il nostro personaggio è una notizia che era, diciamo, molto attesa. 800 24 00 24, cominciate a chiamare. Invece, per quanto riguarda ieri, il premio se lo aggiudica l'ascoltatore che aveva nostalgia per i cieli stellati. Lo dobbiamo dire oggi perché ieri poi è partita una discussione, ma mancavano pochi minuti alla fine della trasmissione e quindi ci sono state delle fazioni che votavano per altre proposte. Alla fine abbiamo deciso all'unanimità che vincono i cieli stellati. Benissimo, allora andiamo ad iniziare con il riepilogo della settimana. Vai. Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday. E allora iniziamo per forza dalle dimissioni del sindaco ex ormai ovviamente Ignazio Marino, dimissioni che sono arrivate insomma dopo vari tentennamenti, erano attese lunedì mattina con una coda naturalmente di commissariamenti, di polemiche, anche perché il Movimento 5 Stelle chiede al Presidente del Consiglio Matteo Renzi di parlare in Parlamento e di spiegare qual è l'indirizzo che il governo vuole dare alla capitale. Non è una cosa peregrina, perché stiamo parlando della capitale d'Italia, non di una città qualunque. Quindi, ma l'indirizzo, diciamo, nel senso chi vuole candidare, o come vuole risolvere il problema. Siccome ci sarà un commissariamento, il commissariamento lo dovrà decidere necessariamente il ministro degli interni, è una roba che riguarda il governo. Però Renzi più volte ha detto: io non mi occupo di queste cose di Roma, io mi occupo del governo, del grosso, della legge di stabilità, eccetera. Da un ex sindaco, però, insomma, questa cosa non è non va bene, insomma. Renzi deve dire qualcosa, però non vuol far vedere che lui ha messo le mani su Roma, sostanzialmente. Hanno un po' tutti paura di metterci le mani, hanno paura, diciamo, che chi tocca Roma muore. Tra l'altro c'è un sondaggio sensazione interessante che ho visto su Sky TG24 che diceva questo, sostanzialmente: la maggior parte dei cittadini sono favorevoli, non romani, ai cittadini italiani, alle dimissioni di Marino, perché insomma era necessario dimettersi dopo quello che era accaduto. Però ce ne sono altrettanti che dicono che sono convinti che lui fosse un baluardo contro l'illegalità e contro la mafia, che è un po' come anch'io dire: fatti da parte tua, adesso giocano quelli che devono giocare, quelli seri, no? Lui l'ha buttata lì a un certo punto, ha detto: quando me ne andrò io torneranno i poteri forti. Orfini si è arrabbiato moltissimo per questa dichiarazione di Marino, perché giustamente ha detto: quando andrai via tu ci siamo noi, perché per cercare perlomeno di mostrare un PD unito e forte. Brunetta. Spudoratezza da parte del Partito Democratico e di Renzi. Sembra che su Roma la sinistra, il PD, non ne sappia niente. Ma governava il Partito Democratico di Renzi a Roma. Assolutamente inaccettabile e spudorato che Renzi se ne lavi le mani come ha fatto ieri da Fazio. Inaccettabile e spudorato. E sul dopo Marino, insomma, c'è la questione commissario, commissariamento, si fanno vari nomi, tra cui anche quello dell'ex assessore alla legalità, Alfonso Sabella, che diciamo, risponde così alla domanda se lui sia disponibile a fare il commissario di Roma sostanzialmente. Quello che mi chiede il mio paese io faccio. Chiaramente non sono disponibile per incarichi politici perché non sono un politico. Per incarichi tecnici, chiaramente sono qui, valuterò eventualmente dovesse arrivare qualche proposta di questo tipo. Quindi un sindaco tecnico? Staremo a vedere. No, vabbè, un commissario sicuramente, un commissario. E poi il futuro di Roma. Insomma, i sondaggi parlano chiaro. Movimento 5 Stelle. Grillo ha specificato che il Movimento 5 Stelle, tra l'altro riunito adesso in questi giorni proprio per guardare al futuro, che dice? Sceglieranno gli iscritti. Le primarie online si faranno. Sentiamo Grillo. Non ci interessa la persona magnifica, ci interessano persone che abbiano una personalità, che abbiano una competenza e che siano sani, sani. Abbiamo bisogno di persone sane. Movimento 5 Stelle riunito a Imola in queste ore. Anche loro non fanno un nome, nel senso che si era chiesti se sarebbero scese esatto, i pezzi grossi, e invece pare di no. Pare però, che continuano a dire non abbiamo bisogno di una persona sì. magnifica, abbiamo bisogno di persone normali. Però quindi evidentemente Roma, Di Battista e Di Maio sono di più di una persona normale. Però tutti a Roma continuano a fare il nome di Di Battista. Chissà che questa frase "decideranno gli iscritti con la rete" non sia un modo per non tradire adesso la questione di coerenza che è stata detta. Siccome Di Battista è parlamentare, il regolamento impedisce che diventi sindaco, che abbia un altro ruolo. Se però dalla rete dovesse arrivare un'investitura spontanea nei confronti di Battista, che potrebbe essere lui il candidato. Chissà, anche perché questo... Di Battista fa un discorso molto sano. Lui dice: io sono stato eletto per stare in Parlamento e quindi tradirei i miei elettori nel momento che me ne andassi dal Parlamento per fare il sindaco di Roma. Tra poco, dopo il traffico, affrontiamo il tema delle unioni civili. Si vota, non si vota, incardinata. La parola della settimana è che la legge è stata incardinata. Infatti non posso sposarmi, però per il momento ho imparato una nuova parola. È stata incardinata. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta Si può fare. Cronache da un paese migliore. E allora, intanto cari ascoltatori, 800 24 00 24, cominciate a chiamare per commentare i temi della settimana, per raccontarci il vostro si può fare e per indovinare il personaggio della settimana, che è legato ad una notizia che era molto attesa, molto attesa. Allora, tema unioni civili abbiamo a detto. A proposito appunto di notizie molto attese. Legge incardinata. L'ultima notizia per quanto riguarda questa settimana di unioni civili è mi viene a dire scazzo, ma non si dovrebbe. No. Lo scontro, ecco, sì, lo scontro tra il ministro Boschi e Alfano. Boschi che dice: noi troveremo un'altra maggioranza. Se non la volete votare voi, esatto, visto che è una legge che va votata da 50 anni, e Alfano la voteremo. Che dice: anche noi allora ci troviamo un altro partner di governo. Si fa un po' ridere, devo sembra dire. Un po' nel vado senso, via col pallone. Esattamente, sembra esattamente quello, solo che c'è la differenza che qualcuno è proprietario del campo del pallone, perché dice: cerchiamo un'altra maggioranza, ovvero il PD, che non gli servono tanti altri voti. È l'azionista esatto. di maggioranza. L'NCD non so chi deve trovare. Dove va? Dove va? Deve cercare un 48%. Intanto però la tensione sale, perché era stato modificato il testo di queste unioni civili. Cirinna era diventato Cirinna 2, diciamo affievolendo l'ipotesi di adozioni, limitandole solo al caso di figli Di figli naturali e non di figli adottati. Beh, di uno dei due partner, esatto. Ma la cosa vergognosa è che si parla di affido e non di, di adozione. Questo sarebbe un grosso problema, perché nessuno vuole in affido il figlio del proprio partner, perché equivale che a 18 anni o comunque anche prima te lo possono portare via. Sentiamo le contestazioni di Alfano e di Lupi. La Cirinna 1 non andava bene, la Cirinna 2 mi pare che vada ancora meno bene sotto alcuni punti di vista. Noi temiamo, siamo preoccupati che attraverso norme scritte in modo ambiguo si violino alcuni paletti fissati dalla Corte Costituzionale, si faccia una sorta di equiparazione con il matrimonio e ci sia la possibilità, prima o dopo, anche attraverso l'intervento della magistratura, che si arrivi all'adottabilità dei bambini da parte di coppie dello stesso sesso. I bambini devono avere un papà e una mamma e il loro diritto viene prima di quello di tutti gli altri. Dove invece si procede, cari ascoltatori, su un altro tema di diritti, e questa è una buona notizia perché continuiamo a dirlo: più diritti per qualcuno non fanno male a nessuno, anzi, quando dai diritti poi puoi pretendere anche esatto, i doveri. Ricordiamolo che quella di Alfano non è invece una buona notizia, perché che questa legge che in tutto il mondo c'è e che noi invece siamo in balia di quattro cattolici che decidono di non votarla, mi sembra terribile. Dove invece si procede è sul Ius Soli, perché se è stato il primo passaggio, il primo voto alla Camera, c'è un sondaggio, dice gli italiani sono favorevoli all'80%, a votare questa legge sono stati il Partito Democratico, l'NCD, SEL e Scelta Civica, Movimento 5 Stelle astenuto, Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia contrari. Noi abbiamo in collegamento Mohamed Talmoun, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Il portavoce della rete G2, cioè della seconda generazione di immigrati in Italia, figli di immigrati o addirittura persone nate in questo paese, che però poi si scontrano con la difficoltà di ottenere la cittadinanza, perché fino ad oggi il percorso era lungo e tortuoso. Intanto, come avete accolto questo primo voto? C'è qualcuno che contesta alcuni passaggi di questa legge? Lo vedremo. C'è anche chi è proprio contro questa previsione di legge. Adesso sentiremo anche magari una voce di contrarietà. Intanto il vostro commento. Figli di stranieri nati in Italia. Sì, noi intanto siamo soddisfatti, insomma, per questo primo passaggio, perché comunque, come dicevate voi, insomma, in studio la legge attuale, la normativa attuale 91-92 limitava fortemente la possibilità di diventare cittadini per delle persone nate qui o cresciute. Perché arrivate da piccoli che si sentono comunque cittadini italiani. Tu, per esempio, di fatto di diventarlo. Tu, per esempio, sei in Italia dal 1978, è così? Sì, io sono in Italia dal 78, sono arrivato da piccolino, 5 anni. I miei genitori, e io, come tantissimi altri, abbiamo avuto tantissime difficoltà. Una traversia avere la cittadinanza, nonostante tu abbia fatto la scuola qua, parli italiano, adesso ti senti perfettamente integrato in Italia, credo almeno, sento parlare. Sento italiano a tutti gli effetti come i miei coetanei. Quanto tempo ci è voluto per avere la cittadinanza? No, io ancora non ho la cittadinanza italiana, sono uno di quelli adesso che... 40 anni passati, Mohamed, è l'ora di mettere la testa a posto. Di quelli che nella parte della riforma, se dovesse passare quella che è stata chiamata, insomma, le disposizioni transitorie che permetteranno a chi non ha goduto dei benefici di questa normativa che sta passando di poter fare domanda, comunque sono uno di quelli che richiederanno la cittadinanza italiana con la nuova legge. Il punto critico, lo dico io il punto critico. Intanto sentiamo una voce della Lega, Invernizzi, i contrari, quelli che proprio sono e restano contrari a questo tipo di legge. Sentiamo. Se volete allargare la cittadinanza, tornate al voto e dite agli italiani: votatemi che io regalerò la cittadinanza a chiunque. La Lega su questo provvedimento esprime un fortissimo no, e lo ripetiamo, perché la cittadinanza non è un diritto, la cittadinanza è l'esito di un processo che loro non faranno. Grazie. Allora, a dire la verità, questa legge però sostanzialmente non è che dia tutti i torti alla Lega, perché la cittadinanza non avviene con uno ius soli automatico, non si nasce in Italia e si diventa cittadini italiani il giorno dopo, come avviene per un figlio di genitori italiani, ma avviene in effetti attraverso un percorso che prevede che uno dei due genitori sia in possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo, che vuol dire avere un reddito non inferiore all'assegno sociale, e un alloggio che risponda ai requisiti di idoneità previsti dalla legge. Beh, non ha tanto ragione la Lega, quindi diciamo che la cittadinanza non è che la si regala, la si compra in questo caso, è perché se c'hai i soldi puoi avere la cittadinanza, se no no, è questo che sta dicendo la legge? Mohamed? Allora, intanto partiamo da una premessa. Noi abbiamo sempre sostenuto come Rete G2, ma come seconde generazioni in generale, che per quanto riguarda i minori, le seconde generazioni, non si può parlare di ottenere la cittadinanza alla fine di un percorso, ma dovrebbe essere all'inizio di un percorso, nel senso che io, come tantissimi altri, avrei dovuto avere la cittadinanza, come in tanti paesi, quando sono appena arrivato o quando sono nato qui, per chi è nato qui, e quindi stabilire subito un patto fra la società italiana e il neocittadino in cui ti do la cittadinanza e ti comporti come cittadino italiano. Questo è il discorso da fare per i minori, perché il discorso che fa la Lega avrebbe senso per i nostri genitori, per gli adulti, certo, non per i minori. D'altra parte è vero, questa norma che è passata non ci soddisfa per questo aspetto qui della carta di soggiorno, che è stato imposto come criterio almeno per uno dei due genitori per poter fare domanda poi per il figlio che eventualmente... Insomma, potrebbe essere anche incostituzionale, perché in effetti, diciamo, due casi identici in cui uno non arriva alla famiglia ad avere un reddito necessario, il bambino, che non ha colpe, responsabilità, non è legato in nessun modo a questa questione, non ottiene la cittadinanza. Questa è una cosa che potrebbe anche... I figli pagano le colpe dei genitori, di nuovo, anche, nel senso, potrebbe anche che mi sembra ingiusto. Mohamed, noi dobbiamo però salutarti, perché siamo in chiusura, c'è il giornale radio, non abbiamo avuto molto tempo, ti ringraziamo. Vedremo magari al prossimo passaggio di legge di risentirci. Grazie intanto e buona domenica. Grazie mille, buona domenica. Della Rete G2, questa è la notizia. Ius Soli passato alla Camera. Tra poco commentiamo e entriamo ancora magari di più nel dettaglio. Però devo ripetere l'indizio per il personaggio della settimana. Una notizia attesa da tanto. 800 24 00 24. Dopo il segnale orario vi è offerto da Logisticamente, Modul Block. Dal più piccolo magazzino, semplice o automatico, al più complesso centro logistico. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, cari ascoltatori, di nuovo buongiorno, ben ritrovati da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini. Buongiorno e buona domenica a tutti. Vi aspettiamo all'800 24 0024, ma anche sui nostri canali social, la pagina Facebook si può fare trattino radio 24, oppure Twitter. Quella di Twitter, chiocciola si può fare 24, oppure sui nostri account personali, il mio chiocciola Carlo Gabardini e il mio chiocciola Ale Maurizi. E poi allora, ci sono anche gli sms, perché ci dicono sempre, ma insomma, possibile, vabbè, che dovete dare anche il numero degli sms, 349 238 6666, questo è il numero degli sms, potete allora scriverci. C'è qualche sms a leggere? No, perché lo vogliono ma non scrivono. Sì. No, scrivono, sì, dicendo date il numero dell'sms, evidentemente lo sai se mi stai scrivendo. Allora, noi aspettiamo un personaggio della settimana legato ad una notizia molto attesa, una notizia attesa, e in palio anche oggi due biglietti e il catalogo della mostra da Raffaello a Scile a Palazzo Reale a Milano fino a febbraio. Senti però che bella notizia che ti do, perché tra poco riprendiamo con il riepilogo delle notizie della settimana a caccia di buone pratiche. Nasce in Umbria il badante di quartiere, o la badante di quartiere, con l'intermediazione dei comuni. Stiamo parlando di Todi, Marciano, Massa Martana e San Venanzo. Sono comuni che si stanno mettendo insieme e praticamente loro trovano i fondi per pagare, laddove c'è necessità, un badante di quartiere o di condominio, uno insomma che dia una mano a quella, a quell'altro. Sai, le famiglie spesso hanno bisogno ma non hanno magari sufficienti soldi per permettersi un badante, allora lo condividono a tempo pieno e lo pagano un po' per il uno. Badante, il condiviso, bellissimo. Badante condiviso, deve essere però un lavoro pazzesco, perché insomma gestire averci un anziano è un conto, gestire 400 anziani di un condominio deve essere veramente pazzesco. Devi trovare proprio Madre Teresa di Calcutta. Oddio, magari 400 no, però più d'uno sì, e non sarà facile. Però questa volta a mettersi in mezzo sono i comuni, che danno una mano, un'iniziativa veramente originale. Siamo in Umbria, allora giustamente facendo il riepilogo, avendo sentito le notizie della settimana, un po' di notizie buone tocca andare a cercarle fuori dal riepilogo, ed è normale che sia così. È ovvio. Ascoltatori, andiamo con Francesca, che ci chiama da Genova. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutte e due e a tutti gli ascoltatori. Grazie. Grazie, buona domenica. Grazie. Secondo me il personaggio della settimana è l'Expo per la notizia dei 20 milioni di visitatori ticket raggiunti. Sì. Esatto. E poi anche per le code, perché tutti parlano delle code che adesso ci sono all'Expo. Una notizia attesa, e lei ha preso la parola attesa, Francesca. Tu hai preso la parola, sì, per collegarti all'attesa. Beh, alla lunga attesa. Sarà che è domenica ed è molto presto, non avevo capito che il giro fosse quello, ma è perfetto. Penso giustamente, sì. attesa. Ma non è questa, la notizia, il personaggio che aspettavamo, però la ringraziamo moltissimo. Grazie, per aver chiamato, Francesca. Perché in effetti così abbiamo ricordato che Expo, visto che l'abbiamo parlato tantissimo, ce la sta facendo in qualche modo, perlomeno come ingressi. Sì, poi la notizia è anche che all'inizio della settimana, a fine settimana scorsa, il governo ha annunciato l'ingresso ufficiale dentro la società che dovrà gestire il post Expo, e quindi molto molto molto tardivamente, però insomma, si muove qualcosa su questo benedetto dopo Expo. Sul dopo, anche perché manca pochissimo. Vabbè, è il 31 ottobre, giusto? Fa quasi far ridere che il governo entri adesso nella... Vabbè, lasciamo per. Ne parleremo tra l'altro tra poco. Marina da Roma, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Prego, su cosa voleva intervenire Marina? Volevo intervenire sulla cittadinanza. Sì. Dunque, intanto, per carità, a dare la cittadinanza a chiunque nasce in Italia, perché questo vorrebbe dire centinaia di migliaia di donne che cercano di venire a partorire qua. Uno. Secondo voi non è vero che con la cittadinanza li faremmo sentire più italiani? No, cosa li faremmo sentire? Più stranieri? No, ricordi che la maggior parte, sì, di quelli che vanno a combattere con l'ISIS provengono dall'Inghilterra. Ma sono pure italiani. No, però la maggior parte. Alcuni di quelli sono italiani. Alcuni di quelli, Marina, alcuni di quelli sono italiani. Sono italiani. No, e cosa facciamo? Scusi Marina, alcuni di questi che sono partiti per l'ISIS sono italiani. E cosa facciamo? Non ho detto solo inglese, ho detto la maggior parte, e lo scrivono, sì, sui giornali. Se poi i giornali scrivono cavolate, beh, non è colpa mia. Io compro 4-5 giornali al giorno di varia, sì, natura per cercare di essere informata. Ma cosa facciamo, Marina, con quegli italiani che vanno a combattere l'ISIS? Facciamo lo screening a tutti gli italiani e vediamo se sono pro-ISIS, li togliamo la cittadinanza. Io vorrei parlare della cittadinanza. Allora, no a chiunque nasce in Italia. Non è vero che si sentirebbero più italiani, perché la maggior parte di quelli che vanno da lì partono dall'Inghilterra, che è stata sempre molto larga. Sì, però scusi Marina, io capisco la sua contrarietà ed è giusto esprimere un punto di vista su questo, però non capisco perché non si sentirebbero più italiani. Perché lei fa questo collegamento con l'ISIS? Guardi che stiamo parlando, chi va a combattere per l'ISIS partendo dall'Europa, stiamo per fortuna parlando di una minoranza. In Italia ci sono decine, centinaia di migliaia di stranieri che non c'entrano nulla con l'ISIS, scusi, altrimenti di cosa stiamo parlando? No, ma parte partono dall'Inghilterra. Vabbè, no, le volevo chiedere una cosa, però mi scusi, le volevo chiedere una cosa molto, nel senso che non capisco una cosa, nel senso che secondo lei, se un bimbo nasce in Italia, fa la scuola italiana, conosce solo l'italiano e molte volte non conosce nemmeno la lingua di provenienza dei suoi genitori, perché non dovrebbe essere italiano? Allora, io a questo volevo arrivare. C'è stata una cosa che nessuno ha ritenuto opportuno di rilevare. Anni fa ci fu un Sanremo condotto da Gianni Morandi. A un certo punto fece salire sul palco tanti giovani provenienti da varie parti del mondo e con un entusiasmo fuori luogo disse: ecco i nuovi italiani. Si avvicinò a una dolcissima, bellissima ragazza e gli disse: tu da dove vieni? Questa ragazza sui 20 anni rispose: vengo di Marocco. Al che Morandi, visibilmente imbarazzato, disse: sì, sì, certo, i tuoi genitori, ma tu sei nata in Italia, da dove vieni? Voleva sapere da quale paese o città italiano veniva. E quindi? Questa ragazza disse Marocco. Va bene, Marina. E dov'è il grave di questo? Non si capisce, Marina. Quindi, conclusione in 2 secondi, perché dobbiamo dare la linea al traffico. Io sono d'accordo a concederla a 30 anni a stranieri che si sono comportati bene, che hanno una casa, un lavoro, si sono comportati come bravi italiani. Grazie Marina, questo è il suo punto di vista. 30 anni mi sembra veramente tardi, ma insomma. Non ho capito assolutamente cosa c'entrava l'episodio di Morandi sul palco con quella del Marocco. Infatti, ero vengo curioso, di Marocco, da dove vieni? Dal Marocco. Forse aveva capito da dove sei nata, in Marocco. Va bene, traffico 800240024. Il personaggio della settimana è legato ad una notizia attesa. Però a questo punto io darei un altro indizio. Siamo generosi. Viene da oltre oceano. La notizia che riguarda il personaggio viene da oltre oceano. Da oltre oceano. Insomma, questo è già attesa un bel... e distante. Traffico. Smau ti aspetta a Milano, 21-23 ottobre, Fiera Milano City, smau.it. Vi presenta... Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, cari ascoltatori, 800240024, vi aspettiamo, ripeto, anche per giocare con noi. Una notizia ad oltreoceano è legata a un personaggio della settimana che andiamo cercando. Insomma, io dico, puoi essere naturalmente contrario a concedere la cittadinanza agli stranieri nati in Italia, seppure con tutte le regole previste da questa legge, ma se la motivazione è perché un giorno a Sanremo Morandi ha invitato sul palco una ragazzina del Marocco che ha risposto così alla domanda di Morandi, allora francamente non ho capito bene l'argomentazione, ma sono quello che non capisco. No, e soprattutto nel momento che invece uno è nato qui, mi sembra abbastanza evidente. Noi addirittura ci stiamo chiedendo di qualcuno che è arrivato qui a 3 anni e ha fatto tutta la scuola e adesso magari ne ha 36 di anni, mi sembra giusto interrogarsi se sia italiano o meno, ma se uno è nato qua non credo che ci siano molti dubbi. Riprendiamo con le notizie della settimana, vai. Buonasera, eccoci, cercheremo di spiegarvi tutto quello che c'è nella legge di stabilità in breve. Partiamo brevissime le parole di Renzi e poi i fatti. La manovra divide con un abisso le parti sociali, per la CGIL è legge con 4 segni... Scusate, vediamo, non se ne può più, me ne rendo conto, sono il primo a saperlo. E questa era Mentana. E poi a me non sembra che succedano così tanti inghippi al TG della 7, però ogni volta che capita lui si incavola. Ma secondo me ormai Mentana teme di avere una talpa all'interno che in realtà è un autore di Crozza mandato apposta per far andare a male delle cose e far andare molto bene l'imitazione di Crozza il venerdì sera. E questo è perché era partito il servizio sbagliato, non sui contenuti della legge di stabilità ma sulle reazioni, si capiva dall'inizio del servizio, e questo era il modo in cui, diciamo, Mentana trattava l'argomento. L'argomento è legge di stabilità, notizia ovviamente di 2 giorni fa, vabbè, insomma, più o meno avete letto sui giornali, avete visto 27 miliardi di promesse, qualcuno dice ma la legge di stabilità è sempre una cosa del genere, ci sono, tanto per dire, capitoli così, 5 miliardi sulla casa, 3,5 miliardi sulla lotta alla povertà, 1,5 miliardi a favore delle imprese, poi c'è tutto il tema delle coperture che sono un po' vaghe, perché insomma da dove vengono questi soldi? L'altra finanziaria occulta è non tanto dove, come li spendi, ma da dove li prendi? E li prendi andando in deficit, cioè con maggiore spesa pubblica. Renzi è stato anche a Radio 24 il giorno dopo l'approvazione della legge di stabilità, ha dato una bella bordata all'Europa, adesso lo sentiremo, ha detto se non ci approvano la legge di stabilità è lo stesso, andiamo avanti lo stesso. Sentiamo però all'inizio della conferenza stampa i tweet sulle buone notizie. Abbiamo 25 tweet di buone notizie. Ho dato la password a Bellacci, quindi quando cortesemente me li metta anche sul mio profilo Twitter, così che viene la prima legge di stabilità spiegata via Twitter nella storia. Io quando Renzi parla di buone notizie mi sento male, perché penso buone notizie è la stessa parola che usiamo noi, ma sono due mondi diversi. Ma soprattutto ho dato la password a Bellacci, bisogna capire se è una buona notizia o meno. Le buone notizie di Renzi, vabbè, i tweet di Renzi. Noi non siamo la Pravda, come ha detto l'altro giorno scherzando con noi Odi Freddi, cioè non siamo il contadino seduto sul trattore che saluta l'obiettivo del fotografo e che ci fa vedere qual è il futuro radioso verso quale stiamo andando, per occultare, come avveniva ai tempi della Pravda, tutto quello che non funziona. Noi cerchiamo veramente di raccontare le cose che vanno, ma non facciamo sconti ai governi in carica, questo sia chiaro. Brunetta. ha fatto una televendita, meglio di Vanna Marchi, ha dato tutto a tutti, non ha dato una sola indicazione di copertura. Questo è un atteggiamento irresponsabile e spudorato. E poi dicevamo il tema Europa. La legge di stabilità dovrà passare al vaglio dell'Europa, la quale Europa, attraverso il vicepresidente della Commissione, ha detto, ha criticato il fatto che si sia abolita la tassa sulla casa, perché l'Europa preferisce che ci siano meno tasse sul lavoro e magari più tasse sulle proprietà. Però il governo in carica ha fatto questa scelta, una scelta politica, ha detto Renzi. Sentiamo come ha risposto il Premier ai microfoni di Alessandro Milan e Oscar Giannino. Fermo restando che se Bruxelles boccia la legge di stabilità tu gliela restituisci tale e quale, e sei uno pari e non cambia niente. Cioè, questo perché sia chiaro come funziona la legge. Se Bruxelles dice no, tu gli dici beh, peccato, sì, ma in questo caso non esiste, perché uno, siamo su 28 paesi tra i pochissimi che rispettano le regole, cioè noi siamo tra i pochissimi che stanno dentro le regole europee, siamo soltanto noi, classe politica italiana, che tutte le volte con fare tafazziano guardiamo all'Europa raccontando che in Italia l'Europa boccerà. Oh, ma noi siamo gli unici che stanno dentro, non soltanto il 3% ma il fiscal compact. Oh, e qui però arriviamo a una buona notizia che non riguarda il governo nazionale, ma riguarda un'altra città, riguarda Milano. Perché pensavo Tafazzi riguardasse. No, perché il bilancio, i soldi pubblici, i soldi dei cittadini, puoi decidere di spenderli anche in un altro modo, attraverso, per esempio, un bilancio partecipativo. Al futuro sindaco di Milano, no scherzo, Francesca Balzani, vice sindaco del comune di Milano. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Futuro sindaco di Milano, no, questa settimana si è parlato di lei, come di lei, adesso ride, perché, per forza. Tutti sono candidati a sindaco di Milano in questo momento. Tutti tranne Pisapia. Tutti, tranne io e Gabardini e Pisapia. No, veniamo alla notizia. Che cos'è il bilancio partecipativo? Perché avete fatto questa scelta? 9 milioni di euro da far decidere ai cittadini, spenderli come? Bello, sì, è una grande sperimentazione, la prima volta che si fa un bilancio partecipativo così importante in Italia, una delle sperimentazioni più significative anche nel panorama europeo. Il funzionamento è semplice, si prende un pezzo del bilancio, in questo caso sono i 9 milioni, e si rimette integralmente ai cittadini il potere di decidere dove investirli. Quindi i cittadini non sono solo informati di come è fatto il bilancio, ma entrano dentro il bilancio e decidono loro come si può utilizzare al meglio quelle risorse. Quindi all'interno di ciascuna zona i cittadini si vedranno, discuteranno e poi alla fine faranno sintesi e sottoporranno alla votazione di quel quartiere, di quella zona, le proposte che sono venute fuori. Ecco, c'è stato anche un evento in settimana, io leggo i titoli dei giornali, la cronaca locale naturalmente, ciclabili, parchi nella città dei giovani, più spazi per noi in 500 all'Ansaldo per scegliere i cantieri del comune. Ma erano solo ragazzi cioè c'è un limite di età? O posso decidere anche un quarantenne per partecipare, dici? Sì. No, così. Sì. No, partecipano tutti coloro che vivono, studiano, lavorano, sì, a Milano e che abbiano almeno compiuto 14 anni, quindi partecipano anche i ragazzi, ma naturalmente non solo i ragazzi. All'Ansaldo invece si sono raccolti i ragazzi dai 14 ai 25 anni, sì, perché il sindaco ha proprio scritto una lettera loro per sollecitare, motivarli, un maggiore coinvolgimento dei giovani. Perché uno dei dicevo uno dei vantaggi di questo, per quello che possiamo capirne noi, di questo bilancio partecipativo che è nato, non so dove è nato, ma si è cominciato ad utilizzare in piccole città, in piccoli comuni in Italia. Io credo che anni 90 già se ne iniziava a parlare, quindi per correttezza va detto che in realtà in Italia è stato usato in vari comuni, è la prima volta che viene fatto in un comune così grande e importante come Milano. È quello che ne sappiamo noi. Uno dei vantaggi è che si coinvolge la cittadinanza, si dà un senso di partecipazione, di res- responsabilità, ammesso che queste parole abbiano ancora un significato, per me ce l'hanno. Qual è il suo punto di vista, Balzani? Guardi, è nato a Porto Alegre ormai molti anni fa la prima sperimentazione in questo senso. Io trovo che ci siano due ottime ragioni per farlo. La prima, che poi dal mio punto di vista sarà che mi occupo da una vita di bilanci, è quella che è un'occasione per capire come è fatto il bilancio della propria città. Con questa sperimentazione si è creata una buona motivazione per tante persone per andare ad aprire il libro misterioso del bilancio e capire veramente dove vanno le risorse, che poi sono di tutti, sono dei cittadini stessi. Quindi trovo che questo sia importantissimo. Finalmente molti sanno com'è il bilancio della loro città, quindi al netto di tante parole, dove sono le priorità sulle quali si investe. Questa per me è una cosa importantissima. E l'altra cosa importantissima è che poi si rompe un po' un cliché, quello per cui la democrazia è sempre quella rappresentativa, c'è il voto, si è rappresentati, per carità, tutto sacrosanto, ma insomma rompere un po' questo schema e ogni tanto far andare veramente nel vivo la forza di poter dire la propria idea, poter portare le proprie proposte, è un po' la stessa cosa, la stessa emozione che si ha con l'iniziativa di legge popolare o col referendum, quando dentro la democrazia si sperimenta la voce diretta dei cittadini. Insomma, secondo me è veramente un momento sempre molto bello, emozionante, che alla fine fa tanta piazza pulita di tanta retorica, di tanta politica, antipolitica. Ora 9 milioni di euro possono sembrare pochi, non sono tanti sicuramente per un bilancio grande come quello del Comune di Milano, quindi sicuramente però neanche qualcuno potrà dire vabbè sì, ma giusto le briciole, giusto per fare bella figura. Io non credo che sia questo, perché comunque 1 milione di euro in ogni zona della città di Milano, sono 9 zone, cioè con 1 milione di euro puoi già fare qualche cosa. Però è un progetto che può anche crescere, cioè si può pensare un domani che se funziona questo meccanismo verranno stanziate cifre maggiori, per esempio? Assolutamente sì. Guarda, la partecipazione funziona solo se diventa una consuetudine, quindi se si dà continuità a queste cose. Quindi questa è una sperimentazione, 9 milioni, come diceva giustamente lei, sono già molti, perché poi se si va a vedere con 1 milione si possono fare molte cose, si può rifare una facciata, si può rifare addirittura una piazza, il rifacimento di Piazza Oberdan, se non ricordo male, è costato 700.000 euro, quindi si può fare molto, poi si possono fare oppure anche tante piccole cose, perché il milione è il budget dato a ciascuna zona, ci sarà la zona che fa un progettore da 1 milione e la zona che invece preferisce fare magari più progetti piccoli. Ma sicuramente, siccome è una sperimentazione, la sfida bella sarà alla fine di questa sperimentazione capire come andare avanti ancora meglio, quindi capire i punti di forza, dove si può correggere, ma l'importante è che diventi una consuetudine, quindi che i cittadini sappiano che c'è questo strumento che torna tutti gli anni e quindi in qualche modo possa sempre allargarsi, magari aumentare la quantità di risorse che possono essere decise così, oppure anche alla fine farlo diventare uno strumento di dialogo che si può far funzionare anche per altri confronti tra il comune e i cittadini. Questo è fondamentale, dargli un futuro. Senta, ma adesso mi faccia però rispondere, mi risponda alla domanda, perché hanno sbagliato i giornali a scrivere che lei potrebbe essere l'erede di Pisapia, che è in pista? Ma guardi, l'ho detto tante volte, l'ho detto a settembre, l'ho ripetuto anche ieri, e io adesso ho un compito molto delicato, oltre ad essere vice sindaco, quindi a dover proprio seguire quotidianamente molte cose. Non dimentichiamo che i mesi che abbiamo davanti sono tutt'altro che semplici, c'è un inverno durante il quale bisognerà portare in consiglio comunale ancora delibere delicate, ma soprattutto sento l'impegno di essere un punto d'equilibrio, l'ho detto tante volte, e su questo investimento fatto sulla mia persona per riportare la calma l'estate scorsa, insomma c'è stato un momento in cui magari c'è stata qualche turbolenza in più, lo sento, lo vivo con molta responsabilità e quindi è sul più bello, è andata via la linea, è sul 15. Balzani c'è ancora? Abbiamo perso il collegamento col vice sindaco, straordinario. Ci stava per dire. È stato bravissimo il vice sindaco, tutto. Devo dire. Aveva fatto un lungo preambolo in modo da poi poter attaccare al volo prima di rispondere. E quindi, mi candido o non mi candido? A voi di Radio 24 di Si Può Fare, vi sto per annunciare che. E invece è caduta la linea. Sembra una barzelletta, ma è così, è proprio caduta. Vediamo se riusciamo a ristabilirla. Non lo so, perché magari è entrata in macchina in una galleria. Comunque era molto interessante il concetto del vice sindaco, che diceva al di là della quantità di soldi è anche uno strumento per far conoscere il bilancio, quindi che può essere anche un primo passo verso, non importa che azzuffarsi adesso se 9 milioni siano tanti o pochi, se bisogna occuparsi di più soldi in maniera partecipata o meno, però intanto è un inizio. Ecco, forse ce l'abbiamo di nuovo, Balzani? Eccomi, era caduta la linea. È stato era il momento più bello. Nel momento nel quale stava concludendo la frase. E poi quindi, ed è caduta la linea. Eravamo rimasti al senso di responsabilità che lei sente. Sì, e quindi insomma questo ruolo di punto di riferimento. Però quindi di non rinizi da però indietro. Quindi non si sottrae. Non mi sottrago affatto. A quello non che sarà anche affatto. Il dopo Pisapia. Beh, ora dopo Pisapia è un percorso da costruire, dopo Pisapia non manca è il futuro. Molto, oggi molto. Beh, insomma, neanche tanto poco, non dimentichiamoci che non manca, neanche tanto poco. Ma sono molti mesi, cinque mesi, non sono tanti, meno di un anno. Beh, le posso fare una domanda stupida, che sono lo stupido dei due, ma nonostante tutto quello che è stato detto, esiste una piccolissima possibilità che Pisapia ci ripensi? Guardi, credo che in cuor nostro forse ci speriamo tutti, però la vedo molto difficile. È un uomo molto coerente, un uomo molto responsabile, quindi insomma mi sembra molto improbabile che possa cambiare idea, anche se confesso che forse in fondo al cuore tutti continuiamo un po' a sperarlo. Beh, comunque la prendiamo per una notizia, perché comunque adesso c'è un po' di speranza. Però è proprio una speranza, quindi una cosa che no, più l'ha detto un molto di chiaramente, l'ha detto molto che, chiaramente che non, certo, che non no, lo rifarà. Infatti, no, no. Un'altra, l'ultima domanda che voglio fare riguarda Expo, perché insomma, con molto ritardo in questa settimana il governo ha annunciato che entrerà dentro la società che dovrà gestire il post Expo. Lei personalmente appoggia, approva la strada annunciata dal ministro Martina che poi è una cosa che nasce a Milano, del polo universitario? Ma guardi, io sono molto concreta. La cosa che auspico di più sul post Expo è intanto sicuramente un progetto fortemente condiviso, quindi finalmente, giustamente, il governo avrà le sue responsabilità, il suo impegno, quindi ci deve essere sentata una grande sintonia su tutti gli attori. Ma poi spero veramente che il progetto parta con forza in tempi rapidissimi. Perché siamo già molto in ritardo, questo bisogna dire. Perché non dimentichiamoci che sul sito di Expo c'è un fattore tempo enorme. Quindi oltre alla bellezza, alla bontà del progetto, credo che sia veramente quasi di pari importanza la capacità di farne un progetto rapidissimamente cantierabile e realizzabile, perché questo sito meraviglioso che dentro ha molta preziosa tecnologia, ovviamente come tutte le cose di questo mondo, è deperibile. Allora bisogna assolutamente considerare il tempo, la possibilità di decollo del progetto come uno degli elementi importanti tanto quanto il suo merito, il suo contenuto. L'idea di una cittadella, università, innovazione, tutti questi temi sono sicuramente meravigliosi e anche molto coerenti poi con Milano, che sarà comunque poi l'area di riferimento forte. Questo polo universitario dell'innovazione legato anche al tema dell'alimentazione e del benessere più in generale, come ha detto Martina, è compatibile con l'idea che diceva lei di essere veloci, essere rapidi o no? Ma direi di sì, è un progetto che volendo si può, è già coerente con quello che è il costruito, il realizzato, il presente, però ecco, non dimentichiamo mai di considerare questo fattore tutti i giorni fin dall'ora immediatamente successiva alla chiusura dei cancelli il 31 ottobre. Perché, insomma, metti mai che stiamo parlando col futuro sindaco di Milano, la sua parola è importante, non lo so, dico, non si sa mai, quindi... Ma se lei potesse decidere l'albero della vita dove lo metterebbe? Lo metterebbe in piazzale Loreto o no? O lo regalerebbe a Roma? Ah, questa è una bella domanda. Però è bello che quest'albero della vita sia conteso. Vuol dire che poi alla fine è diventato un po' l'emblema di un sogno, di una speranza, l'emblema di un futuro. Mi sembra molto bello. Però a piazzale Loreto l'ATM non lo vuole perché è troppo pesante, no? C'è la metropolitana sotto. Poi piazzale Loreto è famosa, diciamo, per l'impiccagione di Mussolini, quindi va anche capito. Un albero, non vorrei che poi arriva anche Cattelan che attacca i bambini impiccati, così abbiamo fatto tutta la storia di Milano, no, di Piazzale Loreto. Non toccatemi Cattelan, che è un mio grande, io lo adoro, un artista che adoro. Anch'io, guardi, anch'io. Quindi sono pronta a difenderlo sempre. Ma lei dove lo metterebbe? Balzani dove lo metterebbe? Ha un suo personale preferito? La domanda era questa. Questa è una bella domanda, perché come lei ricordava non è proprio un manufatto che si colloca agevolmente in ogni dove, no? No, ha una sua, un suo peso specifico in tutti i sensi, di impatto visivo, estetico, pesa molto. In fondo al Corso Sempione. No, credo che non sarà secondario anche un po' capire, stiamo parlando di partecipazione, insomma, che se chiediamo ai cittadini dove vogliono spendere i loro quattrini, direi che anche questo, sull'albero della vita, forse sarebbe carino aprire un dibattito, un confronto. Perché poi, giustamente, perfetto, chi se lo piglia poi paga le bollette. Perché non so quanto consumi l'albero della vita. Sì, la bolletta è un po' un faro quando si accende, però immagino, alla fine il fatto che gli vogliamo bene è veramente un simbolo di futuro, ed ha fatto poi sintesi con queste illuminazioni notturne di tante icone italiane, ma senza essere mai kitsch, che era una sfida tutt'altro che facile da vincere. E in fondo a Corso Sempione potrebbe stare? Non sarebbe male, in fondo a Corso Sempione anche lì potrebbe essere uno skyline un po' sorprendente. Esatto, c'è molto spazio e quindi forse potrebbe anche starci. Grazie, grazie Francesco Balzani. Grazie mille, vice sindaco. Buona domenica. Buona domenica. Allora, 800 24 00 24, noi stiamo cercando anche un personaggio della settimana che viene da oltreoceano. Tra poco, dopo la pausa, riprendiamo con gli ascoltatori. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Roberto da Milano, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno. Su cosa voleva intervenire Roberto? Sulla domanda che avete fatto relativamente alla notizia della settimana. Sì. Ecco, per me penso che possa essere Obama. Perché? Perché la notizia è legata al fatto che non ha deciso che non si faranno più le trivellazioni nell'oceano. In Artico, esatto. È vero. Per il petrolio. È un non si può fare, se vogliamo, di questa settimana. Non era lui però il personaggio. Non è lui, ma grazie, ringraziamo di aver chiamato. Grazie. Devo mille. Dare un altro indizio? Bisogna Aspetta, dare un altro indizio. Facciamo prima un altro ascoltatore. Stefano da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno e buona domenica. Prego. Grazie. Penso che sia una cosa un po' diversa da tutte le notizie. La rivista Playboy che ha cambiato i contenuti, non più fotografie di donne nude ma articoli. È sicuramente una notizia di questa settimana. Non so se sia un si può fare, non lo so se sia meglio un altro giornale di notizie piuttosto che un giornale di donnine nude, però insomma la notizia c'è, poteva essere un nostro personaggio, ma non è la notizia che abbiamo, non è il personaggio che abbiamo scelto questa settimana. Qualcuno dice il preludio alla chiusura definitiva di Playboy, perché Playboy senza donne nude non avrebbe senso. Ma ha sempre avuto degli articoli però Playboy, ricordiamo. Sì. Io devo rettificare una notizia invece con un SMS, giustamente mi dice Mussolini non è stato impiccato a Piazzale Loreto. Volevo semplicemente dire che lo sappiamo tutti, è ovvio, Mussolini in realtà è stato fucilato e poi il corpo è stato appeso alla pensilina del benzinaio di Piazzale Loreto. Per brevità avevo detto impiccato, e mi sembrava brutto dire attaccato su. Sì. Mentre io do la linea a Isidoro che chiama da Milano, Carlo, puoi dare l'indizio a questo punto? Diamolo questo indizio. Il terzo indizio è che il nostro personaggio lo incontri a colazione. Quindi a colazione, cari ascoltatori, 800. Possiamo dare anche un aiuto, anche un aiutino in più, che non sempre i nostri personaggi sono proprio delle persone in carne ed ossa. Ecco, sì. Mamma mia! Proprio l'ho detto, Isidoro, buongiorno. A lei, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Su cosa voleva intervenire, Isidoro? No, volevo intervenire sul bilancio partecipativo. Sì. È una cosa bellissima, così detta in questo modo, e innanzitutto volevo fare anche un elogio al vice sindaco Balzani per l'impegno profuso sulla città. Lei chiama da Milano, tra l'altro, quindi... Io chiamo da Milano, lo ecco, dice a ragion veduta. Lei conosceva questo modello che in effetti... Lo conosco, sì, perché ho partecipato ad un incontro e ho visto che questo bilancio partecipativo ci costa 500.000 euro perché viene dato in mano ad una cooperativa per fare delle indagini. Ora, io mi chiedo questo. Per ogni zona abbiamo 1 milione di euro da spendere, dico bene? Sì. In ogni zona abbiamo i consigli di zona, è vero? Sì, non ci faccio delle domande retoriche. Va bene, ecco, non le faccio domande retoriche, però diciamo, volevo solamente dirvi che già esistono. Sì, lo sappiamo, sono 9. Esatto, e sappiamo anche che esiste anche un piano triennale delle opere pubbliche. Certo. Ora basterebbe che facessero queste. Non c'è bisogno di andare a chiedere ai cittadini cosa vogliono, il cahier d'Orléans, che poi alla fine della allora, fiera non si fa nulla. Ha esordito con ironia dicendo che fai complimenti al vice sindaco e che le ma piace. È vero, ma è vero, mi scusi. Cioè, io sono... Beh, in realtà è un passo in più, se vogliamo, verso una democrazia più partecipata, dove in realtà il bilancio, voce per voce, lo decide la collettività. E poi secondo me lei sta giustamente ponendo l'accento su una questione che in realtà a Milano non è mai molto conosciuta. Perché in realtà il consiglio di zona a Milano non è che lo si vota con estrema attenzione, o sbaglio, di solito mi sembra che avvenga così. Invece giustamente da quando c'è il bilancio partecipativo forse qualcuno dice beh, però forse sono importanti questi consiglieri di zona, stiamo attenti a chi votiamo. Esattamente a pie pari, perché probabilmente non è neanche sentiti, cioè nel senso che io, come ripeto, sono stato a un incontro, ho toccato con mano, e la maggior parte delle persone che sono in questi incontri sono persone di partito o quantomeno tutti iscritti. Qual è la partecipazione dei cittadini? Cioè, dobbiamo smetterla di dirci delle fregnacce, scusate. Ma il fatto di essere iscritti non vuol dire non essere cittadini, però. Beh, ho capito, però sono sempre gli stessi. Non so se però se possono andare tutti e ci vanno sempre gli stessi, la colpa è di quelli che non vanno. D'accordo, ma certo, ma io non è che voglio... Allora, se vogliamo fare una difesa oltranza... Discutere sulla... Discutiamo. Cioè, se si vuole discutere invece sull'utilità, allora discutiamo sull'utilità. Secondo il mio punto di vista, il bilancio partecipativo è una grandissima bella cosa, se vogliamo, però fatta probabilmente in maniera leggermente diversa, cioè con una pubblicizzazione maggiore. Va bene, questo è vero. Grazie Isidoro, grazie, dobbiamo dare il tasto. È vero, bisogna fare comunicazione, perché se no rischia che rimane una cosa dove vanno i soliti noti, e questo naturalmente non va bene. Infatti quello che stiamo facendo noi è proprio parlarne. Esatto. Traffico, torniamo tra un attimo. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta... Si può fare. Cronache da un paese migliore. E allora questa settimana ci lascia in eredità, non solo siamo partiti di lì, le dimissioni di Marino come coda, diciamo, dell'affair Scontrini, ma anche di altre questioni più grandi, come l'inchiesta Mafia Capitale, in cui peraltro Marino non è coinvolto direttamente, ma la sua giunta sì. Gli scandali sono arrivati anche a Milano e Lombardia, perché questa settimana è stato arrestato niente poco di meno che il vicepresidente della regione Mantovani, con l'accusa di concussione, corruzione. Sono state arrestate altre due persone, affari che riguardano, insomma, la sanità, fondamentalmente la sanità. Il presidente della Lombardia Maroni dice però la giunta non è a rischio, sentiamo. L'asta è stata annullata, ci sono in corso accertamenti per valutare la regolarità dell'annullamento, ma ad oggi, ripeto, dagli accertamenti che abbiamo fatto non risultano tangenti pagate per la sanità in Lombardia. E quindi lei non sente la sua giunta a rischio per questo? Assolutamente no. Vogliamo sentire anche Salvini che dice è stata sputtanata letteralmente la sanità lombarda, che è un'eccellenza, semplicemente perché Mantovani avrebbe tentato di aiutare una onlus locale, è stata riaperta, c'è stato un bando, dice se l'accusa è avere cercato di aiutare una onlus del suo territorio, allora mi autodenuncio anch'io, hanno detto Maroni e Salvini. Non lo so, sentiamo Salvini. Che ieri c'è stata una giornata di sputtanamento mediatico sulla miglior sanità europea e anche sulla Lega, perché hanno indagato anche un assessore della Lega. Sapete perché l'hanno indagato? Perché si è permesso di ascoltare le proteste scritte per lettera da un'associazione di volontariato di ambulanze che trasporta malati dializzati. però non è che se hai la migliore sanità europea poi puoi fare quello che ti pare. Questo no, bisogna pur sempre rispettare le regole. Una associazione Aulus fa ricorso al TAR, non scrive, secondo me una lettera non ho capito, a un politico, non ho capito, però, questa reazione che sarebbe è nata semplicemente perché lui ha ascoltato un'associazione di volontari dell'ambulanza. Ma comunque insomma è Salvini e il fantastico mondo della comunicazione. Benissimo, adesso però ci rifacciamo la bocca con una buona notizia della settimana. Il Censis ha diffuso dei dati sorprendenti: 300 nuove imprese al giorno aperte da under 30 in Italia, in particolare nel mondo del digitale. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Che sarà, sarà. Voi sapete già, cari ascoltatori, sentendo questa melodia, che dall'altra parte della linea telefonica c'è Massimo Temporelli. Massimo, buongiorno. Ciao Alessio, ciao Carlo. Buongiorno. Il nostro guru del futuro, no, fisico, scrittore, divulgatore. Veramente, Massimo, è un momento nel quale si parla, e tu sei tra quelli che ne parlano di più, tantissimo di questi argomenti. Io ieri al Festival della Crescita a Milano, altro momento nel quale si parla con convinzione di questo futuro che è già presente, pure tu hai partecipato, ho detto, secondo me al Censis però si sono bevuti qualcosa, perché 300 imprese al giorno nel secondo trimestre dell'anno di Under 35 mi sembra un dato lunare, cioè guardandomi intorno non vedo tutto questo, questo splendore. Però sono dati, che dobbiamo farci? Allora, i dati positivi vanno sempre usati anche solo come placebo, e quindi li prendiamo tutti, cioè ci facciamo questa doccia di ottimismo. Io poi ho letto un po' in giro, molti di queste imprese, se ho capito bene, perché poi dopo i dati sono come al solito interpretati, alcune sono nell'ambito del food e questo si vede, se fate il giro per Milano in questo periodo soprattutto vedete nascere una pletora di nuovi ristoranti locali, anche piccoli carrettini, street food locali, ecco, c'è tantissimo e quindi questo sicuramente fa il grosso, credo poi vanno interpretati bene i dati, questo non vuol dire che non vada bene, sicuramente però non è innovazione, è sicuramente un grande asset del nostro paese che è quello dell'accoglienza e del turismo, che va sfruttato, l'abbiamo già detto mille volte. Se va sfruttato il lavoro, occupazione. E va fatto bene, va fatto in modo più contemporaneo, più moderno, anche digitale se vuoi, con le app che ti portino da mangiare dove sei. Insomma, c'è da fare tanto anche in quel campo. Però io ti ho poi trovato dalla Maker Faire dopo, prima di essere stato al Festival della Crescita con te, e lì invece si vede quello che dovrebbe diventare il nostro paese, che tutti auspichiamo diventi il nostro paese, un luogo dove i giovani, oltre a fare le piadine, benissimo, facciano anche i robot. Velo di ironia, leggerissimo velo di ironia di Massimo. Però è giusto, per uno che si occupa di futuro, è giusto. La Maker Faire, intanto diciamo una parola su cos'è questa Maker Faire, perché la maggior parte di chi ci ascolta dice che... La Maker Faire è un fenomeno che è nato in America e poi è rimbalzato in Europa, in particolare in Italia. Facciamo, stranamente, uno potrebbe dire, l'edizione europea è romana, ed è la terza edizione, con numeri sempre in crescita, con sempre più clamore. Purtroppo quest'anno c'è stato anche il fatto legato alla Sapienza, sapete che è stato il primo anno all'Euro, il secondo al ricordo più, e il terzo quest'anno alla Sapienza. E lì c'è stata un po' di polemica, perché gli studenti dicevano: come, ci chiudete l'università e date in mano a questi, a makers e alle aziende, a parlare di innovazione, noi per entrare all'università dobbiamo scintille pagare tra i makers e gli universitari, no. Vabbè. Sì, c'è stato un po' attacchi, insomma, ieri c'erano i carabinieri fuori, la polizia, insomma, non era una cosa bella. È chiaro che però questi mondi devono incominciare anche qua, senza far polemica, a dialogare, cioè l'università deve parlare con le aziende e con i maker o con chi fa innovazione, altrimenti restiamo sempre. Finisco l'università e poi penso cosa fare. No, mentre fai l'università pensi a cosa farai e costruisci la tua startup o il tuo spin-off o vai a lavorare in un'azienda, perché quelle competenze non solo servono a te, ma servono a chi è dall'altra parte, perché persone che studiano tutto il giorno, noi makers o noi Fab Lab, non possiamo permettercelo. Allora, avere degli universitari che vengono da noi e studiano con noi nuovi metodi per produrre cose, o innovazione, sarebbe la... Invece qua siamo a litigare su chi deve fare cosa. Ci fai, Massimo, qualche esempio di cosa hai visto alla Maker Faire, che può essere, diciamo, la rappresentazione concreta di quei dati di cui parlavamo prima nel campo dell'innovazione, insomma, idee, nuove start-up e cose che... A volte queste aziende magari impiegano poco più che chi l'ha inventata, non importa, però sono comunque idee che funzionano. Qualche esempio? Beh, entrando alla Maker Faire si trova questa grandissima stampante 3D di cui forse abbiamo parlato qualche settimana fa, che si chiama WASP e che dovrebbe stampare in questi giorni una grossa casa da 12 metri di altezza in argilla. L'idea è quella di trasferire tecnologie nei paesi più poveri e poi stampare le case direttamente lì con la materia prima. La casa stampata in 3D è fantastica. È stupenda. Inizio a disegnarla io, che così è molto facile da stampare, visto che notoriamente non so disegnare per niente. In realtà, Massimo, dobbiamo salutarti perché siamo in chiusura. Incredibilmente, siamo in chiusura. Comunque, Massimo, tanto ci risentiamo. Un po' di cose le mettiamo anche sul sito, sulla pagina Facebook. Grazie da mille. E da tanti altri luoghi del futuro. Ciao, Massimo Temporelli. Grazie. Ciao, viva. Ciao. Abbiamo 30 secondi. C'è l'ascoltatore Roberto dalla provincia di Lodi. Per il gioco, Roberto? Ciao, eccomi qua. Chi è il personaggio? Ciao. Al volo, buttati. Penso sia Starbucks, cioè la notizia che Starbucks approverà in Italia. Vabbè. In vera zona Cesarini, ha indovinato. L'indizio sulla colazione era chiarissimo. D'altra parte, Roberto, finalmente Starbucks arriva in Italia, questa è la notizia. I biglietti e il catalogo della mostra da Raffaello a Scile a Palazzo Reale per Roberto. Grazie a tutti, chiudiamo qua. Ciao da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini, buona domenica a tutti. A Lorenzo Nespoli, presenza in diretta, Claudio Schettone, Andrea Piana, Filippo Aureggi. E ciao anche a chi ci ascolta in podcast. Ciao.